Il cacciatore di libri. È uscito in libreria mercoledì il nuovo romanzo di Benedetta Cibrario, la scrittrice torinese che nel 2008 con la sua opera prima Rosso Vermiglio si era aggiudicata il Campiello. Si intitola Sotto cieli non curanti, una citazione di una poesia di Dylan Thomas ed è pubblicato da Feltrinelli. Di questo romanzo però non vi racconterò la trama, e questo perché vi toglierai un po' il gusto della lettura, soprattutto delle prime 50 pagine che veramente tirano il lettore dentro la storia. Anzi, vi consiglio di non leggere neanche la terza di copertina. Insomma, questo è un libro che se decidete di leggere dovete farlo un po' a scatola chiusa. Vi posso solo dire che secondo il mio modesto parere Sotto cieli non curanti è più bello di Rosso Vermiglio. Altro consiglio, se potete leggetelo tutto d'un fiato, soprattutto nella prima parte, non a spizzichi e bocconi, perché siccome è pieno di personaggi, insomma, si rischia un po' di perdere il filo. Ma sentiamo Benedetta Cibrario che ci spiega come è nata l'idea della storia. Credo che in qualche modo volessi parlare dell'effetto domino per certi versi, di come in realtà talvolta dei piccolissimi gesti che compiamo, anzi non talvolta, sempre direi, provocano una serie di conseguenze a catena e di come in realtà ci si possa trovare letteralmente trascinati in una sequenza di eventi senza avere assolutamente idea di dove, come, quando e perché tutto comincia. Un romanzo che è anche pieno di personaggi, impossibile descriverli tutti naturalmente, quindi le propongo un gioco, così io faccio un nome e lei mi dà una descrizione flash di questo personaggio. Per esempio il magistrato Corrias. Un uomo sofferente, inquieto, con un fortissimo senso del dovere, incapace di darsi una spiegazione di alcuni eventi che gli accadono, e nell'incapacità di capire perché tutto succede si lascia un po' trascinare dal lavoro, pensando che questa potrebbe essere la soluzione, ma questa in realtà non è la soluzione. La figlia di 11 anni, Matilde. Una bambina magica, io penso sempre a lei come una bambina magica, una bambina capace di leggere il mondo come un insieme di segni e che in qualche modo lei si sforza di decifrare, e in questo lavoro di decifrazione del mondo trova una sua serenità. La poliziotta Violenna. Una sportiva, oltre che una poliziotta, e quindi come tutti gli sportivi, gente abituata a non mollare mai, anche nelle situazioni più complicate. Di questo romanzo io non dirò la trama, perché le prime 50 pagine sono veramente incalzanti, insomma rovinerei il gusto al lettore. Diciamo solo che c'è un'indagine perché è morto un bambino di 3 anni. E dicevo, le prime 50 pagine sono così incalzanti da sembrare quasi un giallo. Ha preso un po' dalla struttura tipica del giallo per raccontare questa storia? Beh, la struttura del giallo ha in sé una bellissima, secondo me, chiave. Il giallo in realtà è il modo di mettere ordine nel caos. Il libro giallo questo fa, in realtà. Mi sono spesso chiesta come mai c'è tanto successo e tanta passione per la letteratura gialla. Penso forse che tutti noi abbiamo ogni tanto bisogno di leggere che almeno sulla carta le cose hanno una spiegazione in qualche modo. In questo romanzo, dicevamo, ci sono tanti personaggi, ci sono anche diversi io narranti. Perché questa scelta? Il romanzo era, la struttura del romanzo è un po' una scommessa da questo punto di vista, cioè una buona parte del romanzo è narrata in terza persona, però ho scelto in realtà di far parlare alcuni personaggi in prima persona. Questo perché la prima persona ci consente un'immediatezza totale, una forte adesione al personaggio. E in qualche modo penso che in realtà il romanzo classico oggi non possa che in qualche modo guardare anche ad altre forme di arte, io penso al cinema per esempio, e quindi faccio fare a questi personaggi un po' quello che al cinema è la soggettiva. Credo che questo fornisca delle prospettive in più, la molteplicità dei punti di vista. È interessante per uno scrittore cercare di portare avanti un insieme di fili tutti contemporaneamente. È anche un lavoro difficile, però è più, per me, stimolante, una scommessa. A proposito di linguaggio, il romanzo è scritto in maniera scorrevole, ma si vede che il linguaggio è ricercato. Che tipo di approccio lei ha alla scrittura? Insomma, quanto ci lavora su una pagina? Molto. Io dico sempre che non ho orecchio musicale, non ce l'ho per niente, infatti, mentre ho orecchio per le parole, so di avere un orecchio per le parole, lo sento, e quindi non sopporto la scrittura sciatta, posso stare mezzo pomeriggio su un aggettivo o un sostantivo, e credo che alla fine questo si senta. Il suo primo romanzo, Rosso Vermiglio, si è aggiudicato così subito il Campiello nel 2008. Ha avuto un po' così di ansia, di timore nello scrivere questo secondo romanzo? Andrei oltre la definizione di ansia o di timore, direi che sono in uno stato di terrore praticamente, anche perché questo secondo romanzo è diversissimo dal primo. E dunque, come dire, è anche un po' come settarsi da soli un ostacolo ancora più alto. Vincere un premio con un romanzo di un certo genere e uscire con un secondo che è completamente diverso, anche se credo che in realtà il lettore comunque riconosca la voce dello scrittore. È naturalmente una cosa che mi toglie il sonno, ma penso che sia giusto. Cioè, in realtà uno poi si deve pur misurare con le difficoltà. Qual è il giudizio che teme di più, quello dei critici o quello del pubblico? Ma domanda difficilissima. Credo entrambi moltissimo, perché il pubblico è fondamentale, perché il lettore evidentemente per ogni scrittore è il destinatario naturale del suo lavoro. D'altra parte i critici, che leggono molto di più, che hanno una visione molto più ampia di tutto quello che è il panorama della letteratura italiana, hanno evidentemente la capacità di vedere i tuoi errori o le tue capacità con evidentemente un occhio più sofisticato, se non più sofisticato, perlomeno con un occhio più vasto rispetto a quello di un lettore, quindi tutti e due. Credo che non si possa dire l'uno o l'altro. Dicevamo, Rosso Vermiglio e Sotto Cieli Noncuranti sono due romanzi molto diversi. La cosa che io forse ho trovato in comune è l'analisi proprio dei sentimenti, delle sensazioni dei personaggi. Forse è questa la sua voce di scrittrice? Credo di sì. In realtà credo che alla fine io sono capace di raccontare sempre soltanto la stessa storia che è poi quella di un'inquietudine di fondo, di un chiedersi qual è un po' il senso anche della sofferenza, il senso della delusione, le aspettative negate, i sogni che si infrangono. Questo credo che ci fosse sia in Rosso Vermiglio che in questo romanzo. Lei è arrivata tardi alla scrittura, diciamo dopo i 40 anni, ma prima non scriveva o non pubblicava? No, scrivevo e in realtà credo che non ho fatto altro e ho sempre pensato a me stessa che sarei stata una scrittrice prima che qualunque altra cosa, solo che avevo grandissimo rispetto, e questo lo dico sempre, avevo grandissimo rispetto per la scrittura. Io sono arrivata alla scrittura attraverso la lettura e più leggevo le cose, soprattutto i classici, meravigliose scritte prima, più pensavo che invece di dedicarmi a scrivere facevo meglio a leggere le cose scritte dagli altri. Primo romanzo, Il Campiello, dicevamo. Secondo romanzo, cosa si aspetta? Lo Strega? No, per carità, mi sento già ampiamente, come dire, gli dèi mi hanno voluto già molto bene fino adesso, va bene così. E questa era Benedetta Cibrario, autrice di Sotto Cieli Noncuranti, pubblicato da Feltrinelli. Per la rubrica Consigli d'autore, oggi la parola va al giallista Massimo Carlotto. Il suo ultimo romanzo, lo ricordiamo, L'amore del bandito. Gli abbiamo chiesto che rapporto ha con la lettura e come sceglie i libri da leggere. Sono un lettore onnivoro e disorganizzato, nel senso che molto spesso non guardo nemmeno il titolo, l'autore, però mi regolo molto sul consiglio. Per me il passaparola è fondamentale e quindi da una parte ascolto le recensioni, le leggo eccetera eccetera, e però mi piace anche il consiglio, soprattutto dei librai. Non riesco a dire di no a un libraio, per cui se mi consiglia qualche libro alla fine lo compro. Un libro che consiglieresti al pubblico? Io ne ho uno che proprio, anzi posso farne due? Certo, ne hai facoltà. Allora, il primo è Il potere del cane, Don Winslow, che secondo me è un libro straordinario perché racconta il rapporto tra narcotraffico e governi, e questo è molto importante per capire come funziona il narcotraffico a livello mondiale. E l'altro, che riguarda sempre quattrini russi in Spagna, è il libro di Juan Madrid, Marbella Noir, che è veramente un noir bellissimo, lo consiglio perché è una lettura veramente bella. E questi erano i consigli di Massimo Carlotto, lo ripetiamo: Mele Marce Marbella Noir di Juan Madrid, pubblicato da EO, e Il potere del cane di Don Winslow, edito da Einaudi. Prima di chiudere vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri sul nostro sito www.radio24.it in formato MP3 o se desiderate in podcast. Una buona serata da Alessandra Tedesco.